A volte può avere cattiva digestione, mal di stomaco o brontolii. Vai con la nevrosi di Wolf. Può anche sentirsi gonfio, soffrire di flatulenza, avere nausea o vomito. Inoltre, quando inizia ad assumere le compresse, può provare irritazione anale e avere una lieve diarrea. Questi effetti indesiderati, normalmente, migliorano riducendo la dose che assume. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora... Stai affogando nel Titanic. Dura più di qualche giorno. O se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato, non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista. Ricordate però che nella maggior parte dei casi una dieta bilanciata e ricca di acqua e fibre può risolvere durevolmente il vostro problema. È andata. Lo sai che non so di cosa hai parlato. Cioè, provo a immaginare, io ve lo chiedo a voi, mandateci un SMS o qualcosa che assomigli anche... Aspetta, ma ecco, ci sono delle già... dice, ma nessuno, eccetera... aspetta che devo leggere quello che stanno dicendo. Se poteste fare un sondaggio, bravissimo Pezzulli, come gli altri, vabbè. Come gli altri? No, come più gli altri che si sono alternati. Vabbè, insomma, tanti anche questi altri. Di cosa ha parlato? Cosa ci ha raccontato stavolta l'amico Pezzulli? E noi aspettiamo i vostri SMS, sapete perfettamente, 349-238-6666, oppure qualcuno più sveglio che voglia telefonare. Cari Barahonna, allora facciamo un salto su un'atmosfera più natalizia. Ah beh, ci siamo, è vero. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Già ben augurato, ormai ho Natale. Ho una voglia improvvisa di fare l'albero. Guarda, cioè, c'hai vicino. Che fate Natale? Perché noi viene Babbo Natale a casa. Sì, sei sempre tu, ma tuo figlio ti riconosce dalla voce, tanto non la puoi cambiare. Chi chiami? Senti che sta sentendo? Che fa? No, viene proprio Babbo Natale in persona. Quello vero, lui, certo. Venite a fare la colonna sonora di quando arriva, sarebbe bellissimo. Sicuro, certo. Girano per paesi con queste canzoni. 24 sera siamo da te, vestiti da Babbo Natale. Ma no, ma proprio tu li chiami e loro arrivano. Quella sì. Fantastico. Parcheggiano le renne e scendono il Barahonna. Sarebbe fantastico. No, devi chiamare Pannofino per far Babbo Natale. No, sembra. In realtà un anno è venuto Roberto Stocchi. Roberto, beh, ci sta. Le physique du roll. E poi verrà anche qui Roberto Stocchi, assolutamente. Arrivano ma quale DiCaprio Pezzulli doppiava Screech di Bayside School. Ma questi sono fan veri. Comunque. No, no, ma la gente attenta. Ed ecco una delle. Allora, parlo. Sei bravo parlando... in inglese, con i nomi è a leggere. Posso... No, la lista si allunga. Parlò di farmaco procinetico. Wow. Cioè, che serve per andare in bagno. No, vero, non è. No, non proprio. Non è proprio un farmaco, diciamo, che procinetico. Può aiutare in qualche caso. Praticamente è bellissimo. Io soffro di colite. Cioè, nel senso, non utilizzo io un procinetico. Perché altrimenti sarebbe. Faccio la fine di Thunderbolt. Chi l'ha visto James Bond sa che volava con degli effetti particolari. No, non è un farmaco procinetico. Vedo un attimo gli altri SMS. Se è arrivato qualcosa, aspettate, io qui anche con la cultura delle novità, aspetta un attimo. Senti, nel tuo curriculum vitae hai messo domanda. Anche l'uso del computer? Confetto Falcuri. O comunque medicina per stipsi. Ma tu ti rendi conto che ascoltatori straordinari. Sì. Un saluto agli ascoltatori. Ma sono straordinari. L'altra volta anche l'etimologia di una parola che mi sfuggiva. Ha telefonato un professore universitario. Vedi il livello, credo che loro faranno una lettera per cacciarmi via da Radio 24. È vero, bisogna dare un aiuto, diamolo, dai. Diciamo che per fare questa lettura mi sono dovuto preparare. C'è voluta una preparazione. Basta, ecco. Non posso dire altro. Non è il confetto Falqui, no. Comunque medicina per stipsi. Vedi, è bellissimo, Andrea da Milano, no. Qual è il personaggio? Qui ti fanno anche una domanda, te la rigiro. Qual è il personaggio che Pezzulli avrebbe voluto doppiare e finora non è ancora riuscito a farlo? James Bond. Allora, c'è un aneddoto al riguardo, lo posso dire, tanto il film è già uscito. Sì. Io ho chiamato il direttore di doppiaggio di questo Spectre, che è Alessandro Acerbo, e gli ho chiesto di farmi fare una parte minuscola, una battuta nel film. E lui mi ha detto no, perché sei troppo riconoscibile. Certo, altrimenti poi tutti dicono: eh no, che c'è DiCaprio in James Bond. Allora è successo che il film era finito, sono arrivate delle voci aggiunte, tra cui una voce radio. Mi ha chiamato, dice: guarda, questa sarà effettata, non si sentirà. Ti va di venirla a dire gratuitamente? Io sono andato. È bello, sì, pur di esserci. Cioè, io l'ho fatto, io c'ero. E ho detto, non me lo ricordo più. Ah, una frase. Sentite, no, l'altra cosa. Anzi, indovinate se mi sentite nel film Spectre. No, non è neanche DiCaprio. DiCaprio, mai lui è DiCaprio. DiCaprio legge Il bugiardino lassativo. No, no. Direi capo che legge Il bugiardino è il top. No, comunque sì, grazie. Sì, è un bugiardino, però non è di quello. Ci vuole preparazione. Esatto. Com'è DiCaprio dal vivo? Non lo so, com'è DiCaprio dal vivo? Uguale come lo vedi. Sì, è quello come ti fanno i confetti, allora, sei uguale. Allora, DiCaprio secondo me ha un grosso problema. Gli levi la barba, sì, lo pettini e sembra che ha 25 anni. Se tu vedi il grande Gatsby, quando sì, arriva in smoking, cioè sembra fermo nel tempo. Secondo me la sua grande difficoltà è proprio quella di staccarsi da questi personaggi. Cioè in The Revenant infatti lo vedrai che è trasformato, ingrassato, con la barba. Ma è sempre lui. Però comunque l'imprinting è il suo limite per gli Oscar, che non arriva, è che lo riconoscono sempre. Non lo so, se sempre... questo, secondo me l'Oscar l'avrebbe meritato in più occasioni. Perché se vai a vedere i film che ha fatto, non so, in Aviator, in Shutter Island, è vero, lo stesso nel lupo di Wall Street, insomma, e Romeo e Giulietta quando era più Romeo piccolo. Romeo e Giulietta straordinario. Cioè, secondo me l'avrebbe meritato tante volte, però poi sai, ci sono delle logiche diverse. Perché il premio del pubblico non è andato a Pino Insegno l'anno scorso? Esatto, perché presentavo, perché non si può, non si può. Io moralmente l'ho vinto, lo so che l'ho vinto, ma non tutti potevo... avrebbero votato per te. Esatto, l'ho fatto solo per... perché presentavo. Lasciami in questo sogno, dai. Io però ho votato per te quest'anno. Sì, quindi se trovi un voto sono sei io. Tu, grazie. Ma mi stai massacrando. No, ma che? È vero, ho votato. Chiamiamo un amico, no? Sono tutti amici, Francesco Pezzulli. Potevamo sentire sette pezzi dei Barauna durante questo vlog. Invece, quando andiamo in pubblicità? Scusa, fra due minuti, dice Alessandro. Vabbè, due minuti, voglia, quante cose si possono fare. Tu hai anche due figli, no? Io ho due figli, sì. Uno fa doppiaggio. Quanti anni ha? Quattro e mezzo. Ma dai! Ha doppiato un film, ti giuro. Ma quello è quello che ci ha chiesto ogni tanto qualcuno. È ovvio che chi è dentro lo stesso ambiente cerca di far cominciare i propri figli senza chiuderli 9 ore dentro una sala. No, non è che uno li spinge per farli cominciare, è che in America i bambini sono dei fenomeni. Cioè, sì, io mi ricordo un film, per esempio, dove c'era il bambino che parlava con i morti, no? Vedeva i morti. Il Sesto Senso. Il Sesto Senso. Quel bambino va doppiato. Sì. Quindi inevitabilmente, siccome una volta 30 anni fa c'era l'usanza di prendere una donna e fargli fare la voce, esatto, da bambino, oramai invece il cinema è realtà, è verità. E il primo doppiaggio di E.T. era una donna e doppiava la bambina. E quindi una vecchina, perché devi prendere anziane. E quindi adesso il cinema è uno specchio della realtà, adesso prendi i bambini. Quindi se un bambino di 5 anni, chiami un bambino di 5 anni. Siccome non puoi prendere uno per strada, è normale che chiami un figlio magari di, eccolo, di un doppiatore. Attenzione, due insieme. DiCaprio legge la preparazione H. Ciao Fabrizio, e preparazione H da Giorgio da Padova. Ebbene sì. Francesco Pezzulli numero uno. Saluti da Lucrezio. Questa è la summa. Ciao Lucrezio. Lucrezio, grazie a te. È vero, è vero, grazie. Siete veramente attenti, è straordinario. È un bel rapporto. Un altro preparazione H non si è firmato. Altri due, è arrivata la preparazione ormai H. Sta andando di corsa. Il suggerimento ha funzionato. Allora, abbiamo ancora un altro momento insieme a te, ma soprattutto un momento insieme al nostro provinante di turno. Sai che molte persone profane, non laiche, ma profane, si avvicinano a questo mondo, e noi abbiamo sempre lasciamo sempre il numero della nostra voice box, che dovrebbe essere, mi dimentico, ma 800 28 12 12 è quello dove voi potete lasciare i vostri provini, e uno di voi ogni settimana sarà scelto per poi essere ancora una volta messo nel calderone per essere scelto per partecipare magari a un brusio o a una situazione più professionale. E allora dopo abbiamo un nostro amico che ci raggiunge da Firenze, credo dalla Toscana se non sbaglio, ma la conosceremo tra pochissimo. Allora restate incollati con l'orecchio alla radio, soprattutto Radio 24, noi ci sentiamo tra poco. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Voice Anatomy. Ed eccoci di ritorno, e ci ha raggiunti anche il nostro amico provinante. Buonasera. Buonasera, lui è Fabrizio Savegnago. Sì, esatto. Non voglio sbagliare accenti perché già mi stanno massacrando, caro Fabrizio. Tu sei nato a Firenze, come dicevo poco fa. Quanti anni hai? 27. Che lavoro fai? Sono infermiere e quando ci riesco faccio anche l'attore. Ho studiato come attore a Prato. Prato? A sì. Prato. Io sono nonna che è nata, mia nonna è Prato, quando c'era ovviamente. Sono cresciuto lì e mi chiamavano da piccolo artista, tadidanda, artista, ma ero piccolo, no, non sapevo neanche dove fare. E se andavo a fare funghi alle 4 di mattina, lì ho cominciato a drogarmi, proprio lì. Perché, insomma, poi andavo, come si fa andare a funghi un ragazzino di 6 anni alle 4 di mattina e mangia l'uovo sbattuto? Speravo che incontrassi il lupo, capito? Sì, esatto, mi hanno tentato di lasciarmi. Con la nonnina. Lì, ma io tornavo sempre indietro. E da lì che c'è Pinino, no, Policino. Fabrizio, torniamo a te. Cosa hai lasciato nella nostra... Questo è il tuo sogno, insomma, perché non l'hai... percorso direttamente per problemi ovviamente legati al lavoro a... Esatto, cioè io voglio provare a fare della recitazione la mia fonte di guadagno principale. Guarda, Francesco sta tentando da 40 anni per cui... E niente, quindi ci sto provando in tutte le maniere, qualcosa faccio, però è sempre difficile. Guarda caro Fabrizio, non far spegnere il tuo entusiasmo da nessuno, è direttamente proporzionale a quanto tu lo sogni. Io lo dico sempre, non sono un figlio d'arte, sono un figlio d'artri, per cui si può fare. Poi anche io sono un outsider. Sì, non sono sì, siamo degli outsider. È direttamente proporzionale a quanto tu sogni una cosa. Poi la fortuna, poi cioè, ognuno di noi ha fatto le il doppio, capacità ci vuole esatto, di talento, il doppio lavoro l'abbiamo fatto sempre un po' tutti. Io, tu lo fai ancora? Sì. Dio mio. Sono diplomato all'ISEF, anche se dal corpo non si direbbe, ma sono un professore di educazione fisica. Lo so benissimo, perché... la tua assistente era Francesca Draghetti. Esatto, lei è quella che... Mandiamole un saluto. Esatto, ciao Francesca. Lei poi è anche riuscita a fare l'attrice. Esatto. Vabbè, scusate, toglietemi. Alessandro, spegni il microfono. Non è lui il protagonista adesso, lui è soltanto un giudice di questo momento, non un commentatore. Devo parlare con i miei tre amici del Trio Medusa, quanto succederà molto presto e tu dovrai cercare lavoro e mi verrai a chiedere Radio 24, ma non c'è. C'è già Cristian Ansante. Esatto, c'è già Cristian la voce ufficiale, quando si chiamerà Radio 25 vedrai che ne aggiungeranno uno, ma non è il momento. Cosa hai lasciato in segreteria telefonica come provino? Allora, io ho lasciato il monologo di Brad Pitt in Bastardi senza gloria. Niente, una cosetta. Sì, e lo ripropongo oggi. Va bene. Se mi fate un piacere, sì, voi due e anche Baraonna, mm-hmm, dopo che dico siamo d'accordo, se mi rispondete sì signore. Certo, mi piace. Va bene. Assolutamente. Sì signore. Sì, come lo vuoi impostato. Così. Vabbè, in base a quello, a quello che come vi do lo dici. Io ho doppiato Bastardi senza gloria. Ah, l'hai fatto? Ah, sì, facevo Daniel Brühl, l'attore tedesco che ah, è vero, è vero. Il cecchino da sopra la torre anche campanaria, con accento tedesco. Ah, ecco perché non ti ho riconosciuto. Ma tuo figlio sì. Allora, con la dizione ovviamente pulita, non si sentirà sì il toscano, anche se la lingua perfetta è proprio quella toscana, si dice sempre. Sì, sì, ora è un po' l'emozione che mi tradisce. Serve, ma non preoccuparti. Musica c'è? Vogliamo? Ti serve un sottofondo? Come vuoi tu. Vai. Sono il tenente Aldo Rain e sto mettendo insieme una squadra speciale. E mi servono i miei 8 soldati. 8 soldati americani ed ebrei. Avete sentito tutti di un'imminente operazione militare? Beh, noi partiremo un po' prima. Ci lanceremo in Francia, in abiti civili, e una volta che saremo in territorio nemico, come guerriglieri in agguato alla macchia, faremo una cosa e una sola: uccidere i nazisti. Ora, non so voi, ma io sicuro come l'inferno non sono sceso dalle Smoky Mountains, non ho attraversato 5.000 miglia d'acqua, non ho combattuto per mezza Sicilia per buttarmi da un aeroplano del cazzo e dare ai nazisti lezioni di umanità. I nazisti non hanno umanità. Sono i soldati di un pazzo, che odia gli ebrei e pratica l'omicidio di massa, e devono essere eliminati. Ecco perché ogni figlio di puttana che indossi un uniforme nazista dovrà morire. Io sono il discendente della guida di montagna Jim Bridger, perciò ho un po' di sangue indiano nelle vene. E il nostro piano di battaglia sarà quello della resistenza apaci. Saremo crudeli coi tedeschi, e attraverso la crudeltà sapranno chi siamo. Troveranno la prova della nostra crudeltà sui corpi dei loro fratelli smembrati, dilaniati e sfigurati che ci lasceremo dietro. E allora i tedeschi non potranno fare a meno di immaginare le sevizie che i loro fratelli avranno subito per nostra mano e con la punta dei nostri coltelli e con il tacco dei nostri stivali. I tedeschi avranno paura di noi. I tedeschi parleranno di noi. I tedeschi avranno la nausea di noi. E la sera, quando i tedeschi chiuderanno gli occhi e il senso di colpa li torturerà per il male che hanno fatto, pensare a noi li torturerà più di tutto. Siamo d'accordo? Sì, signore! È quello che volevo sentire. Ho una parola di avvertimento per gli aspiranti guerrieri. Quando sarete al mio comando avrete un debito. Un debito con me personalmente. Ogni uomo sotto il mio comando mi dovrà 100 scalpi di nazisti. E io li voglio i miei scalpi. E ciascuno di voi mi darà 100 scalpi nazisti strappati dalla testa di 100 nazisti morti? O ci resterà secco nel farlo? Oh, vedi Fabrizio, parlo io, poi parla ovviamente Francesco. Hai dato il meglio di te adesso. Nella parte finale. Certo. È perché l'emozione. Ma ti sei staccato. Perché sai, quando uno deve fare una cosa semplice, recitata con calma, deve essere piena. Ci deve essere l'emozione, deve essere gonfia, deve essere con grande tensione. Tu giustamente sei giovane, questa esperienza ti manca un po', e allora dove hai trovato la forza? Ma non hai strillato male, hai strillato ingolandola un po' troppo e rischi anche di perdere un po' la voce, ma lì gli hai dato dentro, ti sei dimenticato di Sandra Cerbo, ti sei dimenticato di Brad Pitt, hai fatto quello che sentivi tu di fare in quel momento e lì hai dato il meglio di te da quel punto di vista. Per cui anche se uno da un pezzetto può riuscire a capire, anche da un palleggio, che uno potrebbe magari giocare a pallone serenamente o imparare. Che dici Francesco? Ma io mi capita ogni tanto da giovane direttore di fare dei provini e capisco che quando uno è emozionato si preoccupa di tantissime cose tranne che di quelle importanti. Nel senso, in questi casi più delle volte uno si preoccupa della tecnica, quindi magari nel tuo caso di non far sentire molto l'accento toscano, piuttosto di non scivolare sulle battute, e queste probabilmente sono cose tecniche che a noi interessano, ma relativamente la cosa più importante è recitare, ovvero far passare delle emozioni. E quando uno è sottoposto a un provino, di solito l'emozione invece ti ostacola invece che è un po' il mio problema principale. Quindi gestisci male la respirazione, una serie di è come adesso io voglio parlare con i Barahona. Sì. I Barahona stanno cantando ma suonando dal vivo. Sì. Complimenti, straordinario. Quando uno viene a fare un provino per suonare, non è che devi sentire le scale, cioè la tecnica deve essere acquisita. Devi suonare un pezzo di Chopin e emozionare, sì. Altrimenti Pollini insomma non riempirebbe l'auditorio. Quindi non è, il saper fare un bene pensiero, un sottotesto. La tecnica ci musica, deve essere, certo, perché qua parliamo della serie A, certo, a tutti i livelli, di musica, di doppiaggio, di cinema. Poi in più ci deve essere quel quid che arriva. Infatti puoi vedere pure due persone che suonano lo stesso brano, ma tu guardi più un altro, ma le stesse note, l'emozione. Tu senti il pezzo di Kay Jarrett di Concerto a Colonia e senti un uomo che fa l'amore con pianoforte. E tu sei trascinato là dentro, sentitelo in vinile quel pezzo, Concerto a Colonia, Kay Jarrett. Quindi insieme a lui. Il consiglio che io do in generale a chi fa un provino è: per arrivare bene a un provino la tecnica deve essere talmente conosciuta e talmente propria che viene dimenticata e ti puoi concentrare su tutto il resto, che è quello del dare le emozioni. Va bene, mi sembra un'analisi carina, accurata, che poi ben dispone, perché non è giusto spegnere né l'entusiasmo né tantomeno esaltarle le cose, perché ognuno che non è arrivato, io quando ero piccolo chiedevo a qualcuno arrivato come si fa a fare, cambia, lascia stare, ma perché? Uno deve dare la speranza, assolutamente nessuno può essere giudice di nessun altro, per cui Fabri, in bocca al lupo davvero, rimani grazie ancora qui con noi, perché va bene, grazie. Ti metti in gioco, è questa cosa più importante. Pezzulli, eccolo. Che mi combini a parte Radio DJ con loro, con i nostri amici, a parte il doppiaggio, allora, L'ultimo di Caprio? Va bene, L'ultimo di Caprio. Io, diciamo che io ho diversificato da un po', faccio tante collaborazioni e quella che mi dà più soddisfazione sicuramente è Report con Milena Gabanelli. Io faccio la voce dei servizi di Milena ed sei è anche la voce ufficiale di Radio 2. Sono la voce di Rai 2, scusami. Di Rai 1 adesso, sì. Rai 1, è vero. Sei saltato. Adesso dopo Rai 1 che c'è? Poi sono la voce dei consumatori, Unione Consumatori. L'altro giorno hanno fatto il premio Vincenzo Dona, che saluto Massimiliano, il presidente, sono la voce dell'Unione Consumatori, infatti gliel'ho detto, tutti e due diamo voce alle persone, ottimo claim questo. Bellissimo, diamo voce alle persone. Hai capito? Lui in altro modo, però. Io ho fatto la voce di apertura insomma del premio e teatro? Come fai? Me lo abbandoni? Teatro, perché voi vi possi? No, non l'ho abbandonato, lasciarlo. L'ho fatto altre volte, ho fatto una tournée divertente con Pino Quartullo, Gli innamorati di Goldoni, con la Caldonazzo e Pino Quartullo, poi ho fatto un Giardino dei ciliegi a Roma quando c'era ancora Eliana Ghione. Il teatro è impegnativo, è stancante, è faticoso ed è come il delitto, non paga. A volte è anche purtroppo questo è così. Più che altro comunque noi il lavoro del doppiaggio, uno deve fare delle scelte, quello è quello che ti occupa principalmente. Poi ho anche una famiglia, insomma a una certa ora vorrei anche tornare a casa. E questo è bello. Racconti le favole a tuo figlio. Sì, la sai questa? Gli leggevo dei classici Disney. E se non che mio figlio mezzo addormentato alle 10 fa papà papà, dico dimmi amore, è più brava mamma. Ti giuro l'ha detto. Adesso è più brava mamma. Che possiamo musicare l'andata via di Pezzulli? Come la musichiamo? Diciamo che lo spettacolo continua ugualmente. Anche se lui va via, certo. Allora... Anche se è una grande perdita però. Sì, ma c'è. Sono commosso. Allora show must go on. Spaces, what we're looking for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Show must go on. You can be anything you want. Somebody be. To love. Show must go on. Champions, my friend. I face it with a grin. I never give a name. Oh, with a show, with a show. Show must go on. Beh, complimenti, brividi. Qui a Radio 24, show must go on, lo so, va avanti. Francesco, puoi anche rimanere all'inizio del prossimo blocco se vuoi, per salutare ancora meglio, va non bene? Lo so. Bene, allora anche Radio 24 e Voice Anatomy vanno avanti. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo Vatilix. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. Voice Anatomy. Voice Anatomy 15, 34 minuti e 49 secondi in diretta qui da Radio 24. Pezzulli non se n'è andato, è rimasto. Sono ancora qui. È ancora qui come i Barahona. Ma questo, in questa situazione, in questo momento, parliamo del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e parliamo con Lidia Genchi al telefono della Nomad Film, che è una distribuzione veramente importante di quelle indipendenti che fanno film di qualità, e noi cercheremo ogni puntata di dare questo spazio, anche perché ha un film candidato nella sezione proprio film de sé, film d'autore, ed è Lidia Genchi, spero che sia in telefono, in diretta con noi. Lidia, buon pomeriggio. Sì, buongiorno, buongiorno, sono qui, buongiorno. Allora, sei contenta di questa attenzione che il Gran Premio Internazionale dà ai sì, film di molto. Qualità e alla tua distribuzione? Questo film è bellissimo, The Fighter, che io consiglio, che non è un film americano di combattimenti, no. Su di wrestling eccetera, no, no, no, assolutamente. Il film è elegantissimo, bellissimo, è francese, belga di origine, è un film francese, francese di ecco, origine, tanto per cambiare, il titolo film. Originale è Les Combattants. Les Combattants, che io sì, vedi, l'ho pronunciato bene, perché in inglese è un macello, il francese non lo so, però vai meglio. Sì, no, vado in emulazione, ho seguito Lidia. Con l'italiano come te la cavi? Così e così. Lidia, madonna, perché non è andato via Pezzulli? Senti, cosa sì, voi sì. Dal 2009 insomma, sì. Perché mi confonde Francesco? State distribuendo dei film, documentari e serie TV di grandissima qualità. Quali sono stati i fiori all'occhiello in questi anni, cara Lidia? Dunque, beh, noi abbiamo iniziato con una commedia francese che si chiama in francese La Première Étoile, un grandissimo successo in Francia e abbastanza anche in Italia, e poi siamo passati al film per esempio di regia, premio alla regia di Mattia Maric, che si chiamava sul burlesque, che si chiamava On Tour, cioè Tournée in francese. Mm-hmm. E poi appunto Les Combattants è un altro nostro fiore all'occhiello importante, perché ha vinto comunque 3 César. Mm-hmm. Miglior film esordiente, miglior attrice e miglior attore. poi abbiamo distribuito anche un film d'animazione molto carino che si chiama Panico al Village o Panico Village, fatto in stop motion. Insomma, abbiamo esplorato un po' il panorama dei film indipendenti europei. Sì, soprattutto creandovi una nicchia importante, perché insomma sono molto belli, sono film che noi stiamo cercando di mettere in evidenza anche per fargli fare una seconda vita importante, come c'è un altro bellissimo film candidato sempre in questa categoria che è Mammy, che è meraviglioso anche quello, è un piccolo grande film di un ragazzo di 26 anni che ha girato. Sì, pazzesco, lui è un piccolo genio, è canadese. Xavier Dolan, sì, molto siete bravo. Molto attenti ai film francofoni, Lidia, o mi sbaglio? Sì, non è un caso, anche perché, va bene, io sono molto vicino alla cultura francese, ho vissuto in Francia per anni. Fantastico. Quindi, no, te lo chiedo perché io ho i miei figli che vanno a scuola a Petite Colle faranno Chateau, quindi insomma Chateaubriand. Sì, quindi saranno bilingue francesi, okay. Sono molto vicino. Beh, anche i miei figli sono stati allo Chateaubriand, devo dire che è un'ottima scuola. Sì, ovviamente. Anche i miei figli, ma l'hanno bevuto, non hanno confuso. No, sbagliato. Volevo dire questa cosa, no, perché è importante, siccome noi siamo in un periodo storico in cui ci sono tantissimi detrattori nei confronti del nostro lavoro, e invece io dico sempre che il doppiaggio deve essere visto come una cosa in più, non una cosa che toglie, ma casomai aggiunge, perché oramai con le nuove tecnologie tu hai la possibilità di vedere un film in lingua originale quando vuoi, basta avere il decoder, insomma Sky. Sì, ti puoi divertire il tutto. Certo. Però la possibilità di doppiare un film avvicina anche una serie di pubblico che altrimenti quel film non avrebbe potuto vedere. Esatto. Sì, anche perché sono film difficili, ecco, per esempio in queste il premio dedicato alle distribuzioni edizioni d'autore sono altri quattro insieme a The Fighter, gli fanno compagnia per la Good Film Mammy, che anche quello lo raccomando assolutamente, della Lucky Red Ritorna alla Havana, per la Teodora Film Forza Maggiore, che è un altro film del nord Europa, francese. Bellissimo, sì, anche quello sì, c'è sempre la Francia dietro a tutti i film di qualità, per la Fox c'è Calvario, sono film veramente che vi consigliamo, esistono anche in DVD per cui o in Blu-ray che dir si voglia, cercate di avvicinarvi voi che non magari seguite soltanto un certo tipo di cinema, ho detto per sbrigarmi, cibo di cinema. È colpa tua, Pezzulli, non ho mai toppato così tanto parlando. Possiamo invitare un dottore, un esperto in dislessia, perché potrebbe c'è stato la scorsa puntata. Però ha fallito. No, ha trovato chiuso. Comunque io volevo aggiungere una cosa sul doppiaggio. Se posso dirla. Assolutamente. E a volte effettivamente il doppiaggio in italiano veramente dà la possibilità di interpretare anche il film in modo diverso, perché ovviamente le differenze della lingua esistono e spesso soprattutto per le commedie e un buon doppiatore riesce a dare appunto l'atmosfera italiana, e quindi è interessante anche da questo punto di vista, insomma, diciamo. Se vuoi ricordiamo anche i doppiatori, l'ha diretto Marco Casanova, sì. I protagonisti sono Gioia Saltarelli, Davide Perino, Alberto Bognanni, Cristina Boraschi, Daniele Raffaeli, Gianluca Crisà, Mauro Gravina, Simone Crisari, comunque Roberto Daghetti, Simone Veltroni, sì. Alex Polidori, che bravissimo, ha doppiato il protagonista di Mammy, Stefano Mondini, Irene Di Valmo, Monica Vulcano, Emanuela Damasio, e magari ce ne sono stati anche degli altri, insomma tutti protagonisti e tutti grandi professionisti. Nel frattempo arrivano, ho visto il film, è straordinario, ecco, questo ci fa piacere, i nostri veramente ascoltatori sono attentissimi, qui mi dicono anche che Pezzulli ha doppiato Brad Pitt, ma no. Pino Insegno l'ha doppiato, io però. Sì, nell'esercito delle 12 scimmie, lo dici sempre, eppure bene, questo eppure... dobbiamo chiedere a Brad. Bene, l'unica volta che l'ho soffiato all'amico Sandra Cerbo, che verrà la prossima settimana, il nostro sogno, il mio sogno è quello che Sandra un giorno mi diriga su Brad Pitt, glielo dico sempre, io alleggerisco la voce e lui mi dirigerà. E troppo bravo Francesco, complimenti eccetera. Quando invitate Romano Vanaspina, beh, farete un botto, sì, lo inviteremo Romano. È la voce di Goldrake. La voce di Goldrake, che poi è grande, è diventato sempre biondo, ma sempre... Avete degli ascoltatori trasversali, dai professori universitari agli amanti di Goldrake, insomma. Sì, no, cioè, abbiamo veramente tutte, sono attentissimi davvero. Cara Lidia, allora avremo modo di vederci, incontrarci e salutarci al Gran Premio il 17. Gran Premio, certamente. Anche noi perché... stiamo comunque preparando un altro film doppiato, sempre francese, con la... questa volta c'è Jean Reno e Anna Galiena come protagonisti. Io doppio Anna Galiena in questo film, voi non lo sapete, ma c'è questa grande sorpresa. Perfetto, sarà eccezionale. Sarà un successo. Un cara Lidia, bene, è stato un piacere sentirti. Ci vediamo il 17 al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Grazie Lidia, in bocca al lupo. Arrivederci, grazie, Lidia. Ciao. ciao, ciao, ciao. Beh, bello, anche perché io poi come conduttore di questo premio non so chi è che vince, perché poi saremo noi stessi a votare, insomma. Come ti vesti, elegante? Sempre con lo smoking. Con lo smoking? No, sempre utilizzo lo smoking, finalmente. Ma su di te uso. Fa effetto cameriere o no? No, no, o James Bond? Con corpo che c'ho. James Bond? Sì, molto più James che Giacomo. C'è un famoso racconto di Luca Ward, non so il fondo di verità, però mi ha sempre affascinato, sì. Che dice lui fece il provino per doppiare Pierce Brosnan, James Bond, poi il provino doveva dire carta. Solo questo, perché dice, perché gli altri quando dicevano carta sembrava chiedesse la carta igienica, lui diceva carta, si sentiva che giocava a blackjack. È vero, io persi un provino su questa tipologia su Jim Morrison, sulla biografia di Oliver Stone, The Doors. Su The Doors. Ah. E lui mentre faceva l'amore diceva, esatto, diceva una poesia sua. Ecco, io sembravo Nando Cazzolo e Loris Loddi sembrava veramente uno Jim Morrison fatto che faceva l'amore con lei. Questa è la differenza, che cominciava proprio con potete entrare in sala, il film sta cominciando. Ecco, io sembravo la maschera che dava prego, segnalazioni per entrare. Loris invece è riuscito con la sua follia ad aggiudicarsi quel provino. Fino a che ora possiamo andare in onda con questo? In onda, scusate, ormai purtroppo la televisione si era quasi impossessato di me, anche se la radio è un buon libro, credo che siano molto, ma molto meglio, a parte un bellissimo film in televisione, ma la radio... Non voglio chiedere a Eleonora che ha fatto filosofia, ma mezzo caldo, mezzo freddo, possiamo stare a parlarci... Potremmo parlare per ore, per ore. Cioè... però non è la sede, insomma. Mezzo caldo, mezzo freddo, non ho fatto un libro, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, non è la sede. Adesso i professori universitari scrivono però, Pino. A Radio 24. Ti rimandano. Adesso il direttore chiamerà e dirà, Pino, visto che non sei all'altezza di affrontare Radio 24, perché i tuoi ospiti ne sanno più di te, credo che chiameremo qualcun altro, ma io so chi chiamare per far smettere il mio amico Pezzulli di fare questo... mia moglie ha il telefono staccato. No, sei un bravo uomo e un bravo marito. Devo parlare con i miei amici e colleghi dall'altra parte di quell'altra radio. Signori, stiamo per salutarci e salutiamo davvero questa volta, grazie, Francesco, sarà un piacere essere Pezzulli qui. Perché daremo il benvenuto a un'altra straordinaria attrice, ma anche lei doppiatrice, fa l'età, ma lei lavora tantissimo in teatro, ed è Micaela Esdra, una voce straordinaria, veramente brava, e vogliamo salutare questo amico Pezzulli. Non possiamo fare quella di Alberto Sordi, che ci hanno mai mandato a quel paese, perché mi sembra molto di bassa qualità a questo livello. Allora, e poi parleremo di mezzo caldo, mezzo freddo, ma in privato, quando sentirai pezzo di marmo che ti arriverà sui denti, e il sangue è mezzo caldo e il marmo è mezzo freddo. Prego. Un pezzo di Napoli che ci unisce. Sì. È vero, loro anche di origini. Occhi briganti usano facce, ogni figlio la sapi, si io vorrei passare. Saracino, bello bagnolo, c'era con me, bello racconto, Saracino, come ti fanno morare, Saracino, capille ricci, non mi metto, posso venire a faccia, Saracino, come ti fanno morare, Saracino, bello bagnolo, c'era con me, bello racconto, Saracino, come ti fanno morare, Saracino, capille ricci, non mi metto, eccolo, grandiosi. Io voglio ricordarvi il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio all'Auditorio del Massimo, giovedì 17 dicembre 2015. Ovviamente tutto questo organizzato e promosso dalla Ince Media, con il sostegno del Nuovo IMAI, il patrocinio di Agis, ANEC, Lazio, ANEM, AIDAC e ANAD. Tutto questo organizzato dalla Ince, come ho detto, e dal suo promotore, lo straordinario Filippo Cellini, che saluto, che sarà sicuramente in ufficio a lavorare proprio per mi questo. Mi associo ai saluti, ciao. Esatto. Va bene, allora a tra poco con Voice Anatomy la nostra Micaela Esdra. Ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci tornati dopo il traffico, ci siamo salutati, baciati, salutati. Pezzulli l'ha invitati a Natale, ancora a casa, cercando di avere gratis i Barona in qualche modo. Vestiti ovunque. Da Babbi Natale. Ma dai, su, non è possibile. E allora, dopo un bravissimo attore, doppiatore che dà soprattutto il suo tempo, come ha detto prima, al doppiaggio, invece una grandissima professionista, voglio leggervi soltanto qualche momento della sua biografia, senza dire l'età, senza dire no, la data. Diciamola. No, non si diciamola dice. Pure. No, diciamo perché te li porti bene, soprattutto l'esperienza. L'altro giorno abbiamo avuto l'altra domenica a Piera degli Esposti. Fantastico. Di una brillantezza. Se stavamo un altro 10 minuti mi avrebbe raccontato le cose così intime, sì, che stavo impallidendo anch'io. Grande, grandissimo. Grande dose di ironia, grande, sì, professionalità, come... e la saluto. Ovviamente ci starà ascoltando. Allora, la nostra Micaela Esdra, come ho detto prima, è un'attrice, doppiatrice, attiva dagli anni 60 in teatro, cinema e televisione. Sei un'attrice di formazione teatrale specializzata in repertorio classico, ricevuto nel 1995 il premio Flaiano come miglior interprete femminile. Pensate che è stata diretta da registi del calibro di Giorgio Strehler nel Campiello di Goldoni, Luchino Visconti per esempio, un altro ragazzotto, sì, sì, che si è fatto strada facendo. Sì, anch'io ero bambina a quell'epoca. Immagino, adesso infatti vogliamo sapere qualcosa di più di te e tanti altri come Luca Ronconi, Massimo Castri, e sei sposata adesso con Walter Pagliaro, un altro straordinario regista che poi ti sta dirigendo in un lavoro importante che noi racconteremo tra poco, ovviamente. Senti, a proposito, allora, quando è cominciato tutto questo? Qui ci stiamo perdendo a 50 anni fa, ma tu non sembra che c'è tutti sti anni. Io ho cominciato a 8 anni. E insieme a tutti i miei grandi colleghi come Roberto Chevalier, Massimo Giuliani, cioè... È vero, loro sono in pensione da 20 anni, come sono pure io, grandi attori e doppiatori che poi avremo anche il piacere di averli qui a questi microfoni. Perché mia madre, così, c'era un'amica di famiglia che disse: serve una bambina, la porteresti? Perché questo direttore, che mi pare fosse Stefano Sibaldi, non vuole i bambini ammaestrati ma vuole quelli proprio naif. Nessuno della tua famiglia faceva questo mestiere? No, mio padre era medico e mia madre casalinga, e quindi la porteresti, così, insomma, semplice, naturale. Mia madre mi portò, questo provino andò bene e quindi io cominciai a doppiare un pochino quando serviva, così, una bambina, ogni tanto. Per cui il primo approccio è stato doppiaggio, insomma, sì, è iniziato esattamente lì. Il doppiaggio è la mia casa ed è il lavoro che io amo e che sento proprio come la mia nascita, come la mia casa, ecco. Poi a 12 anni Paola Piccinato, che forse tu ricorderai, sì, insomma, era la moglie di un aiuto regista, disse: serve una ragazzina per fare un provino con Silverio Blasi per l'Istituto Luce per un ruolo. Mia madre disse: ma sarà capace? Vabbè, la porti, la porti. Io vinsi quel provino e da quel momento cominciai a fare tutto: doppiaggio, teatro, televisione, radio. Poi veramente a quell'epoca gli attori erano molto usati, pubblicità, cioè anche erano a Carosello, dappertutto, sì, anche, certo, a Carosello non c'era una limitazione, c'erano gli attori proprio, no? Vedi, quindi, sì, sì. Ecco, e quindi da quel momento in poi io ho cominciato a fare tutto, però ripeto, il doppiaggio è una cosa che io amo, è una cosa bellissima se è fatta con creatività, sì, con divertimento, è una straordinaria invenzione e quindi io lo sento sempre come il mio primo amore, diciamo. L'hai detto, hai detto la parola magica, il divertimento, sì, che io credo che divertimento, sia il gioco e il divertimento deve essere la base di ogni, certo, lavoro. Proprio... Se è fatto invece con tristezza, con routine, con esatto, tutto, allora diventa... Ho emesso vocalmente, ringrazio a Dio che ho parlato, ringrazio a Dio che ho operato, ringrazio a Dio che ti ho ascoltato, sì, invece no, ogni lavoro deve essere proprio affrontato col divertimento. Con gioia e con creatività. E poi lo dico sempre, si chiamano player gli attori all'estero, coloro che giocano, il play è la cosa che si rappresenta. I Jouer in Francia sono coloro che giocano. È vero. E poi insomma Micaela ha dato la voce a personaggi pazzeschi come Sigourney Weaver, Winona Ryder in tantissimi film, compreso Scorsese. Sì, sì. Daryl Hannah eri in Blade Runner. Sì, esattamente. Quella bambolina bionda, sì, meravigliosa. Sì, di poi tu. L'ho doppiata anche in altri film. Sì, Ashley Judd, sì, ma Melanie Griffith, Sharon Stone, Sandra, sì, Bullock, Mila Jovovich, tutti sexy. E poi negli anni 70, sì, quando gli attori venivano doppiati, anche gli attori italiani, Ornella Muti, Eleonora Giorgi, cioè insomma, poi giustamente ne abbiamo salvati, ne avete salvati le persone. Hanno cominciato a doppiarsi da sole e oggi si doppiano egregiamente da sole. Hanno imparato. Infatti qui c'è arrivato anche degli sms. Allora, perché gli attori italiani non si fanno doppiare? Già si muovono male, quando poi aprono bocca è un disastro. Io evito assolutamente di vedere i loro film, dice Margherita. Beh, sì, ma c'è stato quel periodo in cui veramente serviva, sì, delle voci importanti, anche sui nostri su Terence Hill e Bud Spencer, c'erano i grandi doppiatori certo, come Pino Locchi, Colizzi, Glauco Onorato, certo, eccetera, persone eccetera. Persone straordinarie. Però c'era anche uno spadroneggiamento da parte dei registi che ormai in quel periodo, per risolvere rapidamente il problema, doppiavano pure attori straordinari di teatro, sì, di sì, televisione, insomma troppo. Lì un po' troppo, infatti troppo. Parleremo di questa scuola, di queste situazioni di doppiaggio con Gerardo Di Cola, che è un grande studioso del doppiaggio, ah, sì, e ci racconterà proprio anche i Gasman doppiati da Manfredi, sì, o Manfredi doppiato assurdo da Gasman, o Tognazzi doppiato certo da... c'è stato un gioco delle tre carte pazzesco certo, in quel certo, periodo. Certo. Sì, sì. Sì, perché veramente spadroneggiavano da quel punto. Spadroneggiavano un po'. Sì, insomma, perché magari anche gli stessi Fabio Testi, cioè, potevano magari certo farlo da soli all'inizio. Con lo studio, con l'applicazione. Esatto. Poi, Franco Nero Franco oggi Nero si doppia da solo. Assolutamente. Allora non lo lasciavano neanche parlare. Sì. Va bene che bastava guardarlo. Esatto, perché... chi lo sta a sentire? Io lo dico sempre, Franco cammina con gli occhiali. Era dico, troppo bello. Ma tuttora, cioè, con quegli sì, occhi, sì, cioè, lui gira con gli occhiali. Tu se avessi quegli occhi camminerei con le frecce, staccherei i cartelli stradali per indicarmi sì, gli sì, occhi, sì, santa miseria. Per cui tu hai visto, qual è, dov'è che sei più legata? Hai detto al doppiaggio, sicuramente il doppiaggio e poi il teatro, immagino. Moltissimo. Tutto è bello, la nostra professione è meravigliosa. Oggi cercano un po' di ostacolarla, ma noi la difendiamo, giusto? Cioè... Senti, sentiamo un momento tuo della grande Jessica Lange, che io amo sì profondamente in questa serie televisiva fantastica, che io non guardo perché ho paura, ma mia moglie sì, che è American Horror Story, che è teatrale al massimo, sì, che sì, è meraviglioso. Sì. Prima Fight Club addirittura. Dove tu, come no, come dove, no. E poi CSI per 12 anni, la nostra meravigliosa Margaret, come si chiama quella tutta... Sì, ma sì, è pazzesco, io scopro anche delle cose dei miei colleghi, sì, io li guardo come Pezzulli prima, eri tu Breaking Bad, non lo sapevo. E allora ascoltiamo prima Fight Club, altro film meraviglioso, e poi American Horror Story, Jessica Lange. Ascoltiamo Micaela Esdra. Ho lo stomaco pieno di Xanax, ho preso quelle rimaste nella bottiglietta, ma mi sa che erano troppe. Ma questo non è un vero e proprio suicidio. Probabilmente è una cosa tipo un grido d'aiuto. Perciò resti a casa allora. Vuoi aspettare e sentirmi descrivere la morte? Vuoi ascoltare? Vedere se il mio spirito sa usare il telefono. Si dice che quando muore un genitore, il figlio percepisca il senso della propria mortalità. Ma quando muore un figlio, è l'immortalità che il genitore perde. Eccola, se mi dici state ascoltando Radio 24 con questo, i baroni applaudono. No, è Jessica Lange, che brava. Sì, è vero che bisogna rifare quello che fanno loro, ma quella è l'anima che uno gli ridà. Non è facile davanti a un microfono, no, vestiti certo normali, no, no, riuscire a sentire freddo quando c'è dentro riscaldamento, avere sì, paura sì, quando certo sei la persona più serena del mondo, e avere questa angoscia e trasmettere sì questa angoscia certo, quando sì, non sì la hai magari neanche però, un po'. Però sai, noi che l'abbiamo cominciato da ragazzini siamo un po' cresciuti, no? È come andare in bicicletta un po', quindi... Dici non te lo dimentichi? È... No, no, non te lo... E allora fra un po' ancora con Micaela Esdra parleremo di teatro, dei grandi sì strelle, di tutti quelli che ti hanno accompagnato e del tuo teatro di adesso. A okay tra poco con Voice Anatomy. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due, che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Anatomy. Radio 24, Voice Anatomy, Pino Insegno al vostro servizio, 16.08, vicino a me la grandissima, bravissima Michela Esdra, il mio amico che mi ha sempre ripreso dicendo basta dire laico, si dice profana, adesso l'hai imparato, è ora di smetterla di ripetere in continuazione straordinario, perché esistono moltissimi sinonimi, grazie a Carlo da Milano, comunque è una voce straordinaria, grazie Carlo, tu riprendimi sempre. Ce l'ha con te però. Sì, no. Ma che sono attenti, è diverso. Ma che bella voce stupenda che ha lei, signora Michela. Ci arrivano tantissimi complimenti. Ma no, ma sono belli. Ma uno legge anche le cose contrarie. Io leggo sempre molto volentieri. I miei ospiti ultimamente hanno soltanto complimenti. E a me che sì. Cominciano. Cari Baraonna, entriamo nel clima natalizio? Sì. Vai. With every Christmas card of rhyme, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmases be white. Christmases be why? Questa sì che è armonizzazione, Michela. Grazie. Bene, gli auguri di Natale, poi un pino, c'è tutto, c'è veramente tutto. Allora, Michela, quali sono stati i personaggi che ti hanno influenzato di più, che ti hanno aiutato di più, che ti hanno ispirato di più nella tua bella carriera? In teatro? Sì, in teatro, mi piace molto il teatro. In teatro. Beh, il più grande maestro del mondo è Giorgio Strehler. Perché quanto mi sarebbe piaciuto, come tutti ne parlano, fanno tutti questo viso straordinario, cioè, che succedeva? Assistere a una sua prova, era uno stage, già un pomeriggio, succedeva che lui innanzitutto partiva dal concetto della recitazione come musica. Quindi lui era un grande direttore d'orchestra e avvertiva qualunque tipo di stonatura o qualunque tipo di mancanza di tempo e insegnava agli attori, dunque innanzitutto chiunque di noi con lui sotto la sua direzione figurava almeno il 50% in più di quello che realmente valeva. E quindi capitava, ecco, tu sai meglio di me che se tu dici una battuta senti col tuo orecchio che la stai dicendo male, ma non capisci perché, per come. E quindi se non c'è qualcuno che ti dà quel passepartout e che ti fa capire perché tu la dici male, tu rimani in una specie di confusione e di disperazione, perché poi e lui invece trovava il bandolo della matassa. Io ho visto delle cose impressionanti, cioè ho visto un attore nella disperazione entrare nella stanza, stare con lui 2 ore, provare con lui, usciva, ridiceva le battute e gli altri che non sapevano niente: Madonna quanto sei bravo. Allora per un attore questo è un fatto, capisci, che ti fa apparire una persona come un mago, e lui in effetti era un mago. E poi questo rapporto straordinario che lui aveva con la musica, per chi ama la musica era un fatto incredibile. Ci sono stati e ci sono grandi registi che lavorano però sulle dissonanze, cioè sulla sgradevolezza, non sull'armonizzazione. Tutto questo è molto discutibile, perché poi quando uno si siede in platea deve anche godere con le orecchie. Assolutamente, sta tutto lì. Che poi Strehler non è detto che un grande attore sia un grande regista, no. E viceversa, perché certo. Strehler non credo che sia stato un grande attore. Assolutamente, assolutamente. Non lo era. Quelle volte che ha cercato di recitare o che l'ha fatto, ma non gli interessava neanche, lo faceva così. Perché un grande direttore d'orchestra. Sì, grande, beh, insomma. Poi ha fatto delle regie. Quanti anni avevi quando hai cominciato a lavorare con lui? Dunque, io sono andata al Piccolo Teatro di Milano a 23 anni e avevo già lavorato tanto, perché avevo anche conosciuto persone molto importanti, a parte che a 15 anni io mi sono trovata in televisione con Salvo Randone, Lilla Brignone, cioè tutto. Quando tutto, le fiction le faceva la gente, capisci, che recitava. Ecco, no? Capisci? Quindi non è che andassi lì, però improvvisamente quell'incontro mi ha fatto capire che il nostro lavoro era quello, cioè seguire quello che lui diceva. E poi ho visto anche veramente prendere degli attori, fai conto Bruno Zanin, non so se certo, te lo ricordi, io me lo ricordo, aveva qualcun fatto altro, spero il che cinema con Fellini, però era un ragazzetto di Venezia, così veramente preso da lui e trasformato in una cosa straordinaria come Bruno era poi. Se si potesse tornare indietro nel tempo e mantenere se stessi, io tornerei volentieri. Che lui amava talmente la musicalità che noi cominciavamo quello spettacolo e c'erano questi ragazzini di Venezia che buttavano delle monetine sul palcoscenico. Lui, insoddisfatto del rumore che queste monetine procuravano sul palcoscenico, lui metteva un tecnico in quinta con un pezzo di marmo e delle monetine che doppiavano le monetine in scena. E quindi tu sentivi questo rumore fresco, capisci, che iniziava lo spettacolo. Cioè, un artista irripetibile. Mamma mi dispiace mia. Per tutti gli lo so, altri, infatti mi stai facendo venire un'invidia. Ma lui era irripetibile. Purtroppo è morto troppo presto. Troppo presto, sì, è troppo vero. Presto. Ma lo mantenete vivo. Lo state mantenendo vivo voi con questi racconti meravigliosi. Dobbiamo dare un minuto la linea alla regia e tornare dopo un minuto, vero? Okay. Rimanete incollati con noi, attenti a Voice Anatomy. Micaela Esdra, grazie. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci puntuali, sempre Baron al mio fianco, ma soprattutto anche Micaela Esdra. Ci ascoltiamo altri due momenti della sua vita da doppiatrice in due film molto importanti. Uno è L'età dell'innocenza, se non sbaglio, Winona Ryder, diretta da Martin Scorsese, e l'altra Tilda Swinton in Benjamin, il curioso caso di Benjamin Button. Vai. Oggi a pranzo però non mi ha fatto cenno. Ha detto che aveva ricevuto delle magnifiche orchidee dal signor Beaufort e un intero cesto di garofani dal cugino Harry van der Leidens. Era così incantata. Ma non si usa mandare fiori in Europa? So che per te è un periodo lungo. Lunghissimo. Ma i Chivers sono stati fidanzati un anno e mezzo. Larry Leffers e Gertrude addirittura due. Sono sicura che la mamma preferisce seguire la tradizione. Me ne andai con i soli vestiti che avevo indosso. Non me la sento più di leggere. Mi puoi dire tu dove andò? Oh, questo io non lo so. Eccoci, cioè, ci stavamo vedendo la voce da bambina, ma sempre bella, fresca. Sono passati un po' di anni. Un po' di anni, però è rimasta quell'intensità. Senti, com'è cambiato il mondo del teatro? Soprattutto tu ti stai preparando perché sarai protagonista dal 16 al 23 dicembre al Teatro Palladium, bellissimo teatro che sta proprio nella Garbatella, nel cuore della Garbatella, dello spettacolo Alla Meta di Thomas Bernard, per la regia proprio di Walter Pagliaro. Questo è un testo molto bello. Molto forte, molto crudo. È una donna che alla fine della sua vita, con l'approssimarsi della fine, si lascia andare ad un monologo crudo, terribile, alla presenza di una figlia, il cui ruolo è ormai ridotto a quello di uditrice, di badante della madre e di uditrice di questo terribile testamento che questa donna esamina di tutta la sua vita, un'infanzia di povertà e quindi la decisione razionale di sposarsi con un uomo che le faceva schifo, che però era molto ricco, e quindi lo sposa. Da questo amore fasullo nasce un bambino handicappato di cui lei desidera la morte, e non sappiamo se poi veramente questo neonato lei lo avrà soffocato. In pratica lei realizza di aver trascorso tutta la sua vita desiderando la morte di queste creature e anche desiderando di liberarsi poi di questa figlia. Questo stato di frustrazione le ha procurato una cattiveria indicibile, ma alla fine della vita realizza che forse se avesse dedicato, fosse stata più libera e avesse dedicato un po' più di tempo al bene, forse avrebbe trascorso una vita più felice. Ma ormai è troppo tardi. Che lavoro hai fatto sulla voce? Proprio perché, mamma mia. Però sì, bello, bello, intenso. Donna, uno dice, mamma mia. È una donna che ha almeno 10 anni più di me, però questo mi incuriosisce molto e mi affascina. Eh sì, ecco. Perché poi quando parla della sua giovinezza magari alleggerirà, terribile, poi crescerà, terribile. Hai fatto un lavoro abbastanza duro su te stessa, perché... Però interessante, insomma, comunque... Il lavoro che ogni attrice sogna, ogni attore sogna. Mettersi in discussione è stato un testo, questo, fatto da Valeria Moriconi e da Franca Nuti. Niente, però vabbè. Assolutamente... Va bene, però tu mi sembra che... Ma, cioè, tu cammini parallela a queste persone? No, e che significa? No. Sono magari un nome più famoso da un certo punto di vista, ma la preparazione... È un cimento, una cosa che mi diverte fare, anche perché mi piace comunque sempre... Come si lavora col proprio marito? Oh, malissimo. È dura, è più dura. No, però sai... Comunque anche Walter desidera sempre mettersi alla prova, anche perché sono cose difficili e dure che magari le istituzioni non ti consentono di fare, quindi non ti consentono di capire quello che sei in grado di fare e a che momento sei del tuo progresso o del tuo regresso. Beh, con la tua, io ho raccontato quello che sei, ancora non ci può essere nessuna cosa retroattiva, cioè tu sei trasversale. Beh, hai declinato la tua vita in tutte le direzioni, che va dal doppiaggio, dal teatrone, dal cinema, gli sceneggiati, cioè non ti manca niente. Televisione. Sei stato ospite qui con me, per cui sei arrivata fino alla fine, senti un percorso. Parlavo in negativo ovviamente nei miei confronti. Cioè, certo, penso, come esaltazione. No, perché invece no, è bellissimo stare qui. E io penso comunque che nel bene o nel male bisogna fare, tentare di fare le cose. Che cos'è che non rifaresti però? C'è stata una cosa? Puoi dirlo? Qualcosa che non rifaresti? No, no, non credo. Nulla. No, no. Anche qualcosa che non è andata bene, però è servita per arrivare dove sei arrivata. Io sono una persona razionale. Mi butto e faccio quello che devo fare. Poi, insomma, se si sbaglia, pazienza. I tuoi genitori hanno goduto di tutto questo? Sì, visto che è stata lo startup, madre. È stata mamma che ti ha portato madre, lì. Sì, papà sì. Come medico, tanto magari più razionale. Mio padre era un uomo magnifico, per cui qualunque cosa facevano i figli era sempre straordinario. Mia madre era più severa. Figlia unica? No, no, no. Ho un fratello, medico. Medica? Allora papà è rimasto contento. Sì, ma dice, vabbè, sì, ma una figlia attrice, ma c'ho l'altro medico. Sì, sì, tuttora sì. Fa però il medico? Lui anche, sì, sì, sì. E mia sorella, che ora è in pensione, però per lui qualunque cosa facevano i figli era straordinario. Invece posso dirlo, straordinario. Certo. Straordinario, tu puoi dirlo. Se no a me mi strilla Carlo da Milano, io non lo posso dire, posso ascoltarlo straordinario, non posso cambiare. E invece mia madre no, era molto molto severa, dovevi sempre fare di più, fare meglio, anche troppo. Quello ti fa crescere, sai. Tipo che io non sarei capace a fare quello che ha fatto mia madre con me, che mi aspettava con la cucchiarella. Questa roba anni 70, sì. Davvero? Io lì ho capito che ero molto veloce, perché dovevo evitare quando tornavo a casa la cucchiarella, che sapevo che aveva parlato con i professori, oppure ho cominciato. Ma anche loro, quando ho detto ma proviamo a fare l'attore, devo dire, mi hanno aiutato anch'io. E tu mentivi, raccontavi dei rotoni. Sì, io ho sempre raccontato frottole. Io sono veramente un frottolaro vero. Gli amici miei dicevano, tu Pino, lo sappiamo che stai dicendo un sacco di cazzate, si può dire. Di che segno sei? Vergine, ascendente cancro. E loro dicono, però ci fai sognare con queste cose. Dice, noi ci crediamo per il momento in cui c'è. E sono stato sempre un affabulatore da quel punto di vista. Le storie, le fantasie mi hanno sempre affascinato. Certo. Tuttora dico un po' di bugie, non a mia moglie. Allora, senti, è la cosa bellissima. Con chi hai lavorato? Con chi ti sei trovata meglio di questi grandi personaggi? Stai parlando del doppiaggio? Sì, del teatro, doppiaggio un po' tutti professionisti straordinari, cioè, possiamo dirli, insomma. Sì, sì. Beh, io ho lavorato con Giulio Panicali, che questi antichi meravigliosi, sì. Con i bambini, quello che otteneva dai bambini, ti dico solo questo, che noi eravamo piccoli, andavamo in sala, lui come vedeva le madri le cacciava fuori, solo i bambini, le madri non le voleva. Erano straordinari, i Cigoli, Sibaldi, Stefano Sibaldi, Gualtiero De Angelis, Gualtiero, Gary Grant, Lauro Gazzolo, il vecchietto, anzi vogliamo ricordare Nando, che sì, purtroppo L'altra settimana ho aperto la trasmissione con una sua poesia. Caro, carissimo. E poi Peppino Rinaldi. Oh. Massimo Turci, Pino Locchi. Massimo ancora la stessa voce di quando era giovane, pensa. Sì, grande sì. Peppino Rinaldi. Adesso, insomma, mi torni a teatro e sono molto felice. Sì. Io cercherò veramente. Il teatro non va mai perso di vista, come un buon libro e una buona radio. Insomma, perché il poi teatro è bello. È tratta bello. Di tutti i grandi temi della nostra vita. Insomma, sì, no? Non dovete avere paura del teatro. Andate a vedere le cose divertenti che sicuramente vi veicoleranno per vedere qualcosa di più intenso. Certo. Tutte e due sono tutto, di Serie A, tutto. Ma non perdetelo. Ero un pupo quando sono andato a vedere Romolo Valli diretto da De Lullo in un Enrico IV. Era per fare sega a scuola, era per non fare il compito in classe di matematica. Andiamo all'Eliseo, chi se ne frega. Lì io ho capito che non sarei mai diventato come Romolo Valli, ma quel mondo mi ha affascinato, certo. E qualcuno di noi ha intrapreso quella strada. È bello, si sogna a teatro, non ci sono cambi scena rapidi come la televisione, come siamo abituati ormai a vedere, il telecomando non c'è, ma se riuscite ad immergervi in quel mondo è fantastico, è meraviglioso. Esiste ancora qualcuno che ce lo può raccontare bene, non così tanti come prima, Michela? No, io soffro. Infatti, un po'. Tu hai nominato Romolo come auditore. Valli, per loro è stato paradossalmente un po' più semplice, perché comunque il teatro era più rispettato. Era più... Pensi che sia un po' in declino questo, il fattore teatro, T minuscola? Ma sai, fanno di tutto, vogliono eliminarlo, vogliono eliminare tutto quello che è cultura, e invece sbagliano, perché i ragazzi non possono, a mio avviso, perdonatemi, sono antica, guardare solo il computer. Ecco, io non credo. No, sicuramente nessuno vuole demonizzare niente, ma va vissuta, certo. Soltanto anche quella strada una via, perché adesso il computer è una strada due vie, dove tu ti permette di interagire, di dire quello, certo, che ti piace, loro ti rispondono, tu fai, va benissimo, certo. Ma anche quella strada una via, da buon voyeur, ma se che tu uno pensi, deve essere, come per il teatro e per il cinema. Se tu pensi che al Teatro Greco di Siracusa, posto stupendo dove consiglio tutti di andare, e, a parte 13.000 spettatori, sì, a sera, sì, la gente che sta in Sicilia porta i bambini piccoli, i neonati, cioè li porta. È suggestivo. È incredibile, incredibile. Ma infatti io spero di avere presto il ministro della pubblica istruzione, che è molto attento, Stefania Giannini, che interverrà anche al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, si è mostrata veramente una persona trasversale da questo punto di vista. Io lo voglio il teatro nelle scuole, certo, ma non per far fare gli attori a questi ragazzi, ma per aiutarli proprio a vivere meglio, a capire, a disinibirsi, la loro storia, ma tutto, certo, perché ti aiuta, certo, veramente tanto. E fra poco avremo qui, pensa, noi ogni volta abbiamo anche dei luminari da questo punto di vista, sempre nel gioco della voce. Ovviamente ci sarà il professor Masi, che è uno psicologo, psicoterapeuta, e svolge la sua attività anche, parleremo di ipnosi fra poco e come che si bello. Arriva con la voce a Bellissimo. Questa grande suggestione. Se puoi rimanere, tanto rimani qui sì. con noi. E allora noi siamo arrivati al punto di salutare, però se vuoi rimani anche col professor Masi, ti va? Cioè, hai tempo o devi? Sì, certo che ho tempo, eh? Sì, sì, anche ma Barona? Mi fa piacere ascoltare, certo. Bene, allora tra pochissimo Voice Anatomy, rimane qui Michela Esdra e i nostri amici Barona, che andiamo al prossimo blocco con uno stacchetto? Sì, uno stacchetto, un brano radiofonico, ma una radio di altri tempi, era la Leiar, il pezzo è Maramao, perché se muore. Beh. Maramao, perché sei morto, pane bim non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu, le vicine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta resta chiusa e tu non rispondi più. Tranquilli, è sempre la radio del 2015, e c'è il quartetto Cedra, ma c'è chi corrisponde benissimo. E allora, sempre tra poco con Michela Esdra, e vi ricordo che dal 16 al 23 dicembre sarà al Teatro Palladio con questo straordinario, l'ho detto, testo, e adesso mi scriverà, Alla meta di Thomas Bernhard per energia di Walter Pagliaro. A tra poco il nostro professor Masi. Grazie. non vedo l'ora, tra pochissimo. Voice Anatomy. Eccoci, puntuali 16:33. Voi sanatemi, come vi ho detto, Michela Estra è rimasta qui al mio fianco apposta. Per accompagnare in questo viaggio, anche questo attraverso la voce, ma una voce particolare. Lui è il professor Luciano Masi, è psicologo, psicoterapeuta e svolge la sua attività professionale a Roma. C'è una cosa in inglese che non leggo, perché è socio fondatore e didatta del ECAT. Che cos'è l'ECAT, professore? Un'associazione internazionale che si occupa di psicoterapia autogena, esatto. Che è una forma di trance. È docente di scuola di specializzazione e formazione di psicoterapia, conduce corsi di tecniche di ipnosi terapia, ed è questo che vi interessa e ci interessa a Firenze presso il CEFORP. Ha scritto diversi saggi in materia di psicoterapia, tra cui manuale di tecniche di ipnosi terapia. Professor Masi, in psicoterapia ci sono moltissimi orientamenti. Lei è specializzato in... psicoterapie analitiche brevi, cioè le si sbriga no si anche quello, ma no, non è così riduttivo. No, il concetto. No, lo so, si recupera in intensità quello che si perde in durata. Come dicevo prima di entrare qua, sì, delle volte anche in una sola seduta si riesce a prendere il nucleo conflittuale e a poterlo trattare. Nella psicoterapia, nella psicanalisi classica ci sarebbe voluto 15 anni, insomma. Invece lei utilizza questa tecnica della trance ipnotica per riuscire a risolvere. La trance ipnotica a vasto raggio, sia per la modificazione di sintomi psicosomatici, sia per la regressione, tornare indietro e osservare e poter far venire a galla i nuclei conflittuali anche al di là della vita stessa, al di là della nascita, per esempio le esperienze nell'utero materno e anche le esperienze precedenti che sono poi trasmesse attraverso il DNA. Nel nostro cervello ci sono memorie somatiche di tutti i tipi che riguardano tutta l'evoluzione della specie, quindi per cui non lei è da escludere che, diciamo, dei sentimenti, delle emozioni, per esempio un odio o qualcosa del genere, un conflitto, per esempio nei confronti di donne con i capelli rossi, esce fuori durante la trance ipnotica, possa essere stato trasmesso da qualche avo lontano e essere ospitato nel cervello emotivo, nell'amigdala e altre strutture del genere della persona che vive l'esperienza attuale. Per cui quella persona in quel momento ha dei disturbi, magari che derivano da una vita non sua. O esatto, è proprio così. Può avere dei disturbi che riguardano altre persone. Per esempio, posso citare un esempio. Sì. Una paziente aveva proprio recentemente difficoltà nel rapportarsi con gli uomini. Il problema, in una sola seduta di regressione, è stato addirittura visto, percepito il momento, cioè lei si è identificata in un neonato che stava in una culla e c'erano i nonni che guardavano terrorizzati questo neonato. Cos'era successo? Era successo che i nonni volevano il figlio maschio, avevano avuto due figlie femmine. E poi il figlio maschio era finalmente nato, il terzo. Certo. Se non che la mamma l'aveva, per fare le faccende, l'aveva un po' trascurato e questo è morto nella culla. Allora, grande tragedia, hanno fatto subito un altro figlio, ma è nata una figlia, la mamma della paziente. Questa ha trasmesso, ovviamente su di lei si sono scatenati i rancori di questi nonni. Certo. Perché aveva usurpato un posto non suo. Questa tensione, questa colpevolizzazione è stata trasmessa alla paziente, la quale si portava dietro un conflitto, una colpa che non apparteneva alla sua storia personale. E tutto questo è molto importante con la voce, perché Voice Anatomy, il professore. Queste persone, intanto, come si utilizza la trance ipnotica? Cioè c'è bisogno che lei parli ovviamente al suo paziente in un certo modo, cioè utilizzare un certo tipo di vocalità, di voce, certo, di tensione. Prendo per esempio come paradigma la trance sciamanica. Perché esistono vari tipi di trance, sì, è vero? Sì, ci sono vari tipi di trance. C'è la trance ipnotica, è quella più conosciuta, è quella di cui stiamo parlando oggi. Poi c'è la trance autogena, che come dice la parola è una trance che si genera da sola, perché mette in moto un programma di trance, di andare in trance, che è già scritto nel cervello. La natura ha fatto le cose per bene, ogni tanto ci fa riposare il nostro cervello. Poi c'è la trance mistica, molto interessante, perché quando è autentica, naturalmente, perché il cervello dei pazienti dei veggenti va in alfa, c'è un ritmo alfa puro, e quindi c'è una completa dissociazione mentre vivono intense emozioni. Tutto questo naturalmente, ovviamente, dovuto a un suono, dovuto in maniera naturale. E lì, per esempio, durante la trance mistica, la voce è infantile, la voce dei veggenti. Durante la trance sciamanica, ecco, questo volevo prendere come paradigma, si induce attraverso l'uso solo di suoni, senza voce, ma suoni a bassa frequenza. Importante che siano a bassa frequenza. Onde lunghe, tamburi e sonagli. Capito, poi, Barona? Poi un'iperventilazione, eccetera, eccetera. E la stessa tecnica la utilizziamo noi, con la voce, naturalmente. Con la voce, quando è il momento del primo livello di trance, che sarebbe dato dalla chiusura delle palpebre, quel momento inizia la chiusura spontanea delle palpebre, in quel momento inizia la trance, allora bisogna immediatamente rinforzare questo primo passaggio con delle induzioni di pesantezza, di incollamento, cioè è importante che le modalità vocali siano ritmiche, cadenzate, e onde lunghe, bassa frequenza. Non ha tanto importanza il tono generalmente è basso, certo, però potrebbe anche essere un po' più alto. Ma l'importante è che siano onde a bassa frequenza, su questo non c'è dubbio. Una volta stabilita la trance, però, si può anche fare il fenomeno del contrasto, cioè l'operatore, proprio per rinforzare ancora di più la trance, può improvvisamente cominciare ad aumentare la frequenza della voce e ad alzare il tono, cioè a dare tutti stimoli che in situazioni normali risveglierebbero l'attenzione e metterebbero l'individuo in piena efficienza. Lì invece non può farlo. E allora tutto questo è un ulteriore rinforzo per l'approfondimento della trance. E sono parole che servono a sapere qualcosa del paziente, oppure sono parole soltanto come suoni di parole che portano il paziente alla trance? Ancora non è cominciata l'interrogazione alla persona che hai di fronte, è ancora fase. Assolutamente, questa è solo la prima fase. Poi c'è l'approfondimento della trance. I singoli approfondimenti seguono sempre la stessa regola, cioè si devono usare suoni vocali a bassa frequenza, con onde lunghe. Cioè, per esempio, un approfondimento può essere la levitazione del braccio. Il braccio si solleva da solo. Un altro può essere la catalessi. Il braccio diventa rigido, non può né alzarsi né abbassarsi. Un altro è il movimento rotatorio. Questo movimento rotatorio viene usato spesso per la regressione, tornare indietro, perché è come un vortice che porta indietro. Ecco, mentre si danno gli approfondimenti, qualche volta noi lo usiamo con la regressione, con la catalessi si usa il fenomeno del contrasto, cioè a volte si può dare la voce in un altro modo, voce più brillante, più intensa. Praticamente ti accorgi che ormai il paziente è in trance quando riesce a fare quello che tu gli stai dicendo di fare. Quando non è lui che lo fa, perché la trance è uno stato dissociativo. La mente cosciente osserva, la mente inconscia invece, l'io corporeo, come lo vogliamo chiamare, opera, si collega alle funzioni corporee oppure alle funzioni psichiche, le modifica piano piano. È affascinante. Che sì, è un mondo veramente ancora tutto da scoprire, anche per noi, ormai quasi 40 anni di esperienza. Qualcosa, è ancora da scoprire. Qualcosa, sì, ci sono delle cose misteriose, come per esempio il percorso nella vita. Quali fenomeni si manifestano durante questa trance? Cioè fenomeni? Beh, fenomeni per esempio di amnesia risveglio, fenomeni di amnesia dissociativa. Io sono convinto che molti delitti commessi con amnesia a risveglio siano stati commessi nella più profonda della trance, cioè la trance sonnambulica. Lì c'è una scissione fortissima che provoca amnesia dissociativa. E si riesce a capire? Se noi non la induciamo mai. No, quello assolutamente, ma magari è successo in alcuni processi anche molto importanti che sembra che chi abbia commesso... Certamente si riesce a capire se il soggetto sta mentendo o non mentendo, o no. Questo c'è tutto il lavoro di Paul Ekman, per cui c'è tutta la mimica del volto, per si riesce a scoprire. Per esempio, posso dire una mia opinione, per esempio nel caso di Cogne, secondo me la signora non sta mentendo. Quindi se per caso ha commesso quello di cui è accusato, cosa ancora da dimostrare, essa ha agito in stato di trance sonnambulica, quindi sarebbe incapace di intendere e di volere. Tu hai nominato Paul Ekman, che è il più incapace di intendere e di volere. Più grande studioso di comunicazione non verbale del mondo. Da lì hanno tratto anche una serie di telefilm, Lie to Me, che è molto interessante, un po' troppo fantascientifico. Mentre ci sono altri personaggi di noti processi che non nomino, in cui si vede chiaramente che stanno mentendo, perché ci sono dei segni mimici che sono in contrasto alle parole che stanno dicendo, e quindi quello si può vedere chiaramente, insomma. Quanto servirebbe un attore, Michela? Mi scusi, queste tecniche sono ammesse? Si possono adoperare per esempio per un delitto o sono vietate? Ecco, questa è una domanda interessantissima, perché la legge prevede la possibilità del giudice di utilizzare l'ipnosi, ma solo col testimone, non con l'accusato. L'imputato non può essere violentato, diciamo così, con una procedura invasiva, ma col testimone sì. Quante volte i testimoni interpretano la realtà piuttosto che riferire quello che hanno visto? Sì. Mi arriva un messaggio, quindi quando mi chiedono da chi l'hai preso posso dire che è responsabilità di qualche parente? Ovviamente gioco ironicamente su questo. Bene, rimanete ancora con noi per l'ultimo momento di Voice Anatomy, veramente affascinante. Fra un po' ascolteremo anche i Barahonna con un piccolo pezzo sull'ipnosi. A tra poco con Voice Anatomy, il professor Masi e Michela Esdra. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Anatomy. Affascinante questo percorso nella psicoterapia, soprattutto nell'ipnosi, nella trance, e tutto questo, le voci, la voce sia dell'operatore, del professore che induce all'ipnosi, sia le voci di chi entra in trance. Qual è il grado di intensità con cui tornano a galla determinate esperienze, professore? L'intensità è fortissima, dipende dal livello di trance, cioè se è una trance media il recupero delle esperienze è ovviamente più limitato. Quella per noi già è sufficiente per indurre, per fare delle induzioni trasformative, per esempio per lavorare su un sintomo, per esempio per seguire, per effettuare una psicoprofilassi al parto, insomma, dare delle induzioni affinché le contrazioni siano meno dolorose, oppure per rieducare il riflusso esofageo, no? Dare delle induzioni allo sfintere del cardiaco in modo che riprenda la sua elasticità. Pensa al professore prima di andare in scena, Michela. Entreremo in scena con una serenità. Ma a quel punto ci sono delle parole chiavi, però, professore, non c'è quella parola chiave. Ecco, è più importante la voce, il tono, lo ripeto, onde lunghe a bassa frequenza e qualche volta fenomeno di contrasto positivo, per esempio nei comandi post-ipnotici, quando la trance è profonda, allora lì in quel momento si può dire, per esempio, quando tu porterai una sigaretta alle labbra sentirai un forte disgusto, non so, di feci, di qualsiasi altro sapore sgradevole. Non me lo dica, professore, è rimasto solo quello. E così via, eccetera. Beh, ma... No, anche quello... Dica a mia moglie quando sentirai la voce del tuo uomo che ti parlerà, tu l'amerai profondamente, non direi più niente in contrasto. Ma questo non è possibile. Non si può fare. No, spiego il perché. È scientificamente provato. Furono fatti sono famosi gli esperimenti di Charcot. Charcot è stato il maestro alla Salpêtrière, a Parigi è stato il maestro di Freud, poi Freud ha abbandonato l'ipnosi, eccetera. Sono famosi gli esperimenti fatti con le suore. Quando Charcot sottoponeva a trance le suore, esse si comportavano come tutte le altre persone, cioè se gli dava l'ordine post ipnotico di camminare come un neonato a quattro gambe, eccetera, eccetera, e ci camminavano, di aprire un ombrello in mezzo alla stanza, l'aprivano e così. Ma se dava loro l'ordine di alzare le gonne, queste non lo facevano. Per loro era un punto morale fortissimo. Radicato. E quindi assolutamente la natura non l'ha data questa possibilità, non si potrebbe mai indurre una persona a commettere un delitto. E al risveglio della trance, professore, si ricordano questo percorso emozionale che hanno fatto insieme a lei? Se è una trance profonda non lo ricordano, no. Cioè completa amnesia. Se è una trance media possono ricordare l'80%, il 20% no. Ovviamente è molto interessante vedere quel 20% rimosso e su quello si va ad indagare, si lavora, eccetera. A proposito di voce, volevo dire che la voce dei pazienti in trance è sempre alterata, sempre. Appena entrano in trance, appena si verifica l'incollamento, la voce si modifica. Ma diventa una voce naturale o innaturale rispetto a quello che è una voce naturale, ma torna indietro negli stadi evolutivi. In profonda regressione la voce è sempre infantile, quindi il timbro cambia, ma è sempre il timbro evolutivo del soggetto, cioè quello antico. Invece delle volte vengono fuori in trance profonda, questo solo in trance profonda, vengono fuori a volte in modo insospettato delle voci non appartenenti al soggetto, cioè con un timbro diverso. Non ha nulla a che vedere con l'essere indemoniati o posseduti, ma posseduti in un altro tipo. Allora, io ho avuto in terapia alcuni casi di possessioni laiche, naturalmente, erano ragazzi giovani dai 16 ai 20 anni che ogni tanto sentivano delle presenze strane che gli prendevano il comportamento, soprattutto il comportamento e le emozioni, ma non il pensiero, non la coscienza. Loro osservavano tutte, solo maschi, perché con le donne il diavolo non ci si mette, perché sarebbe sconfitto in partenza, per cui solo uomini. Beh, questi qui con opportune terapie, facendo incontrare la voce in uno spazio immaginario, eccetera, eccetera, gli è riuscito, almeno finora è successo questo. Ora, da dove venivano queste voci, insomma, queste presenze? Lì erano solo presenze, con cambiamento di voce. Ecco. I soggetti avevano un cambiamento di voce mentre andavano in un bar, per esempio, a dire parolacce, cioè avevano un cambiamento di voce. Da dove venivano? Evidentemente venivano da memorie somatiche registrate nel cervello emotivo. Non può essere una suggestione. Ecco. Questo con il cambiamento di voce non è possibile. Invece, come diceva prima la collega, la musicista, possono essere le fantasie, possono intervenire quando si recuperano le esperienze individuali, ma non sono mai fantasie pure. Una parte è esperienza vera, l'altra parte è elaborata in senso è fantastico. Ma sei sempre tu comunque, è un'altra parte di te. Esatto, poi spetta al terapeuta andare ad analizzare e a fare la selezione del grano buono. Posso chiederle una cosa? Lei cosa ne pensa del fenomeno, per esempio, delle donne tarantolate in Puglia? Sta ipnotizzando il professore con questa voce. Attenzione, sta usando le onde lunghe. Sono indubbiamente degli stati di trance. Mistica. Sono degli stati di trance spontanei, che però si agganciano a memorie somatiche antichissime. Secondo me, io non ho studiato proprio a fondo il fenomeno, ma do la l'antropologia del fenomeno. Anche perché ho insegnato per molti anni in una scuola di psicoterapia e di counseling di Taranto, quindi questo fenomeno lo conosco. Era De Martino che l'ha studiato bene, perché mia moglie è antropologa, me lo spiegò una volta. Allora, stiamo chiudendo, noi la riavremo, professore, nel senso ovviamente morale del termine. Anche Michela, vorrei chiudere con il pezzo dei Barona dedicato all'ipnosi. Ci siamo permessi di giocare, il professore non ce ne avrà male, cioè sullo stereotipo proprio della allora ipnosi. Io utilizzo questo momento per ringraziare i Barona, ovviamente Michela Esdra, il professor Masi, grazie, che cercheremo anche di riavere dall'altra parte. Alessandro, Gaia, grazie a Damiano, che non si chiama Savelli ma Fabiani, e Alessia Navarro, che segue sempre tutto questo. E allora, con i Barona chiudiamo questo pezzo di Voice Anatomy. A me gli occhi, a me gli occhi, al mio tre ti risveglierai. A me gli occhi, a me gli occhi, al mio tre ti risveglierai. Pendolo a destra, a sinistra. Occhi, a me gli occhi, al mio tre ti risveglierai. Pendolo a destra, a sinistra. Ciao. La prossima domenica con Voice Anatomy. Grazie. Bellissimo. Anche perché...